Focus Economia. Le 17:09 minuti, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Il 349-238-6666 per i vostri sms in diretta, in una giornata nella quale naturalmente torneremo ad affrontare le questioni che riguardano l'Europa e soprattutto l'Irlanda. Dall'Ecofin di oggi, al di là delle dichiarazioni di intenti, non sembra essere francamente emerso nulla di molto concreto, ma naturalmente lo approfondiremo più avanti, mentre la Commissione europea, insieme al Fondo Monetario Internazionale, si prepara ad una missione in Irlanda che inizierà domani, della quale naturalmente non si sa quando si concluderà, perché al momento Dublino non ha ancora fatto una richiesta ufficiale di aiuti per i suoi problemi che riguardano il bilancio pubblico da una parte, ma soprattutto la situazione delle banche. Toccheremo il tema delle materie prime, ci sono dei dati interessanti oggi che arrivano dalla FAO e che riguardano le materie prime agricole, e però c'è una questione che sta aleggiando in questo periodo ed è quella che riguarda le materie prime tessili. C'è un problema di approvvigionamento abbastanza forte che sta creando qualche problema all'industria italiana. E poi ritorneremo sulla finanziaria e ritoccheremo nuovamente il tema dell'ecobonus. Lo abbiamo affrontato due giorni fa e lo sapete, è arrivato un emendamento che sarà portato in finanziaria e che riguarda appunto l'eco bonus. Certo, è decisamente ridotto rispetto alle volte precedenti, si prevede una spalmatura in 10 anni invece che in 5, probabilmente riguarderà solo i primi 6 mesi dell'anno, insomma vedremo che cosa ne pensano le aziende interessate. E poi toccheremo anche il tema del rapporto che è arrivato oggi della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che parla di possibili infiltrazioni dell'Andrangheta nelle imprese lombarde, in particolare per quanto riguarda l'Expo. Le notizie in breve di questa giornata. Da dire che oggi i mercati non sembrano comportarsi male, se così possiamo dirla, almeno non come ieri. Il FTSE MIB guadagna lo 0,31%, il FTSE Share lo 0,38%, Parigi lo 0,80%, Francoforte mezzo punto percentuale e l'America è in lieve calo, quindi insomma sembra prevalere un certo clima di incertezza rispetto alla questione irlandese. Il petrolio ha aperto in calo a New York per il terzo giorno consecutivo, un calo dello 0,6% ad $81,87 al barile, così anche l'oro, sempre dello 0,6% a $1,332,15 l'oncia sui mercati asiatici. Si diceva a proposito di materie prime e dei dati che sono stati diffusi oggi dalla FAO, che approfondiremo più avanti. Nel 2010 il costo totale delle importazioni alimentari a livello mondiale potrebbe superare la soglia dei $1,000 miliardi, un record che non si registrava dal 2008. Per i paesi poveri il costo degli alimentari aumenterà dell'11% e del 20% per i paesi a basso reddito con deficit alimentare. Abbiamo qualche dato dall'America. Le costruzioni di nuove case a ottobre hanno segnato un crollo del 12% ad un tasso annuo di 519.000 unità. Gli economisti si aspettavano un calo del 2%, quindi nettamente superiore alle attese. Dall'Europa ci sono anche le notizie di mercato, quelle che riguardano i credit default swaps, ossia questa sorta di assicurazioni sul rischio da fallimento dei paesi, costi di assicurazione che sono in forte rialzo. Per quanto riguarda quelli sulla Grecia, se ne hanno un rialzo di 88 punti base a quota 946, i massimi da fine giugno. Per quanto riguarda l'Irlanda, un più 22 a 515, Portogallo più 13, Spagna più 8, Italia più 7. E per quanto riguarda il Portogallo, ha venduto questa mattina sul mercato 750 milioni di euro di titoli di Stato a 12 mesi. La domanda è stata sì pari a 1,8 volte l'ammontare offerto, ma il rendimento è stato in fortissima crescita. Al 4,813%. L'asta precedente, quella del 3 novembre, era a un 3,26%. E sul tema dei mercati, della situazione europea, ha parlato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ha detto: abbiamo il dovere di far fronte al vincolo del debito con l'approvazione della legge di stabilità. Ci sono turbulenze finanziarie da cui possono derivare incognite. Dunque sentiamo le parole del Presidente della Repubblica. Accenno al fatto che nel quadro delle conseguenze, ancora come si è rilevato, tutt'altro che lievi, della crisi economica mondiale innescata da inquinamenti e cedimenti del sistema finanziario, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, si collocano turbulenze finanziarie che persistono, che investono ancora una volta l'Eurozona, e sappiamo che da ciò possono anche derivare incognite per un paese come il nostro, gravato da un pesantissimo stock di debito pubblico. Abbiamo il dovere di fare fronte a questo vincolo che pesa tanto anche sul nostro bilancio anno per anno, attraverso un costo purtroppo variabile, spesso variabile in crescita, del costo del servizio del debito. E è molto importante che noi diamo nelle prossime settimane un segno di continuità e di rigore attraverso l'approvazione nei tempi stabiliti delle leggi di stabilità e di bilancio per il 2011. Io perciò considero molto importante il fatto che si sia dimostrato senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, decidendo di dare l'assoluta precedenza all'approvazione delle leggi di stabilità e di bilancio anche rispetto al dibattito politico che è aperto e che troverà successivamente modo di svilupparsi in Parlamento. È stato, ripeto, un segno di senso di responsabilità, e avremo bisogno di altri segni di senso di responsabilità da parte di tutte le forze nel prossimo avvenire. Così dunque Giorgio Napolitano, prima della premiazione dei nuovi alfieri del lavoro, i 25 migliori studenti d'Italia diplomati nelle superiori. Le notizie all'Ecofin ci raccontano che ha parlato il ministro dell'economia Giulio Tremonti, dicendo che l'Italia è solida e non è un problema ma parte della soluzione, e che per l'Italia riguardo all'Irlanda non esiste un rischio controparte perché l'Italia non collasserà. E ancora, la Banca d'Italia che dice le banche italiane avrebbero risorse patrimoniali sufficienti per assorbire le perdite derivanti da un deterioramento macroeconomico e da un aumento del rischio sovrano. Così Andrea Enria, che è capo del servizio normativa e politiche di vigilanza della Banca d'Italia, in un'audizione alla Commissione Finanze. I disoccupati in Italia nel terzo trimestre erano oltre 2 milioni, sostanzialmente invariati rispetto al secondo, è quello che dice il Centro Studi di Confindustria nella sua congiuntura flash. Tra l'altro oggi è intervenuto anche il presidente di Rete Impresa Italia, Carlo Sangalli, sul tema di un possibile impatto sulle piccole e medie imprese della crisi di governo e poi anche sul problema della ripresa, della crescita. Sentiamolo intervistato da Teresa Trillò di Radio Coro Il Sole 24 Ore. Non giova questo momento e questo clima di incertezza. Noi ci auguriamo che, ripristinato un clima di certezza, di quadro politico, si possa ritrovare su alcuni passaggi una volontà politica per consentire a questo mondo di potersi esprimere, di poter dare il proprio contributo alla crescita. Le prospettive oggi che il nostro paese vive, le prospettive di crescita, sono ancora prospettive lente e fragili. Ecco, allora noi dobbiamo accelerare là dove c'è lentezza e irrobustire là dove c'è fragilità. E quindi noi chiediamo che ci sia una politica particolarmente attenta a quell'economia dei servizi che noi rappresentiamo attraverso una buona politica e delle buone riforme. Così Carlo Sangalli, mentre tra l'altro proprio a proposito di crescita economica, nella congiuntura flash del Centro Studi di Confindustria ci sono anche dei dati interessanti sul fronte del prodotto interno lordo, perché scrive il Centro Studi che la frenata dell'economia italiana è più brusca dell'atteso e delle altre economie dell'area euro. Nel terzo trimestre il PIL è salito appena dello 0,2% e questo riduce molto le probabilità di andare oltre l'1% annuo nel 2010 e nel 2011 e allarga la forbice della crescita persa. Infine, due notizie che riguardano la criminalità organizzata, ma in parte anche alcuni settori, quelli che potremmo definire deviati del mondo delle imprese, e arrivano dalla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che dice la consolidata presenza in alcune aree lombarde di storiche famiglie dell''Ndrangheta ha influenzato la vita economica, sociale e politica di quei luoghi, e c'è un'interazione tra le cosche e le aziende lombarde. Ancora, serve un razionale programma di prevenzione che consenta di bloccare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese in previsione delle opere previste per l'Expo 2015, e anche di questo parleremo più tardi. Veniamo dunque al primo tema di questa giornata, ossia l'Ecofin e la crisi irlandese. Si è riunito dunque dopo l'Eurogruppo di ieri, come di consueto, l'Ecofin, con al centro anche la situazione in Irlanda. Ieri i ministri delle finanze dell'Eurozona si erano detti pronti ad attivare per l'Irlanda, se necessario, il meccanismo di assistenza e stabilità finanziaria da 750 miliardi di euro targato Europa Fondo Monetario Internazionale. Si dice, le stime oscillano molto per quanto riguarda le necessità irlandesi dell'ex Tigre Celtica, si dice tra i 60, abbiamo sentito cifre tra i 60 e i 100 miliardi di euro. Fatto sta che domani partirà una missione dell'Europa e del Fondo Monetario Internazionale, si confronterà con i vertici di Dublino per capire che cosa fare. Saluto Adriana Cerretelli, inviata a Bruxelles del Sole 24 Ore. Buonasera Adriana. Però abbiamo degli strani rumori al momento che arrivano da Bruxelles, non sappiamo dove sia Adriana Cerretelli. Intanto ci sentiamo qualche voce da questa giornata. Il ministro belga delle finanze Didier Reynders, che ha presieduto i lavori del Consiglio Ecofin, perché la presidenza di turno è belga, che dice siamo pronti ad agire. Ci troviamo di fronte a una situazione di preoccupazione nei confronti di un paese che non ha fatto al momento alcuna richiesta di aiuti. Ma noi siamo pronti ad agire. Noi siamo pronti con strumenti che hanno risorse importanti. Con la Grecia ci volle tempo per creare gli strumenti di intervento. Adesso gli strumenti ci sono. Siamo pronti a usarli. L'analisi della situazione continuerà e vedremo quali sono i risultati dei lavori in corso tra le autorità irlandesi, la Commissione, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Non vogliamo correre, non vogliamo anticipare i tempi di una richiesta. Posso garantire che ci sarà una grande attenzione riguardo alla ristrutturazione bancaria in Irlanda, così come è successo in altri paesi. E ricordo che ci sono state ristrutturazioni importanti in passato. Circa il Regno Unito, non è vietato che ci siano degli interventi complementari oltre a quelli decisi in contesto europeo, ma ripeto, è ancora un po' presto per parlare di un qualunque intervento o di un accordo di intervento, visto che non è stata formulata alcuna richiesta. Di qualunque intervento o di un accordo su un'intervento, tant qu'une demande n'est pas formulée. Questo dunque Didier Reynders, che è il ministro belga delle finanze, sul tema di una potenziale richiesta di aiuti da parte irlandese, perché ve lo ricordiamo, siamo ancora a quel tira e molla di cui parlavamo ieri, con l'Unione Europea e probabilmente anche il Fondo Monetario Internazionale convinti che all'Irlanda serva un aiuto, mentre gli irlandesi continuano a negarlo o comunque a traccheggiare. Bene, sul tema della potenziale richiesta di aiuti sentiamo anche il commissario europeo agli affari economici e monetari, Olli Rehn, in conferenza stampa al termine dell'Ecofin. The Irish authorities are committed. Le autorità irlandesi sono impegnate, a partire dallo scorso fine settimana, in intensi incontri tecnici che hanno già preso il via. Questi incontri sono adesso ancora più intensi e allargati a Commissione europea, Banca centrale e Fondo monetario internazionale. L'obiettivo è mettere a punto il modo migliore per fornire qualsiasi sostegno sia necessario per far fronte ai rischi del mercato, specialmente sul fronte del settore bancario. Questi lavori possono essere considerati come una preparazione aggiuntiva e intensa nel caso di una potenziale richiesta da parte del governo irlandese. By the Irish government. Adesso siamo in grado di collegarci con Adriana Cerretelli, inviata del Sole 24 Ore a Bruxelles. Adriana, buonasera. Buonasera. Abbiamo sentito prima degli strani rumori, speriamo che adesso sia tutto tranquillo. A me era cascata la linea. Benissimo, adesso ce l'abbiamo la linea. Allora, Adriana, si diceva che gli irlandesi continuano un pochino a traccheggiare, insomma, non dicono esplicitamente di aver bisogno di aiuto, però nei fatti è quel che sta succedendo, e il fatto che domani ci sia una missione dell'Europa e del Fondo Monetario a Dublino nella sostanza lo certifica. Sì, assolutamente. Diciamo che per ora la situazione resta ancora abbastanza nebulosa dal punto di vista del quantum e del per chi, nel senso che non si sa quali sono le cifre. Si parla di un pacchetto teorico di 100 miliardi, di cui la metà da destinare alle banche. Ci sono voci secondo cui diciamo il via libera a questo pacchetto potrebbe arrivare già alla fine di questo weekend, in modo che lunedì sia, diciamo, pronto all'apertura dei mercati. L'orientamento che sembra prevalere è quello di fare un salvataggio solo bancario e non che riguardi invece la parte debito e conti pubblici, perché sotto questo aspetto si spera che i programmi di austerità molto pesante che il governo irlandese varerà entro la fine del mese, si parla di tagli per 15 miliardi in 4 anni, tutto questo insomma possa in qualche modo tamponare diciamo le falle sul piano dei conti pubblici. La vera verità è che il governo irlandese non vorrebbe chiedere fondi a sostegno appunto del suo bilancio, perché per evitare delle condizionalità troppo pesanti sulla sua politica economica, in particolare su quella fiscale. L'Irlanda ha una tassazione da sempre molto bassa, 12,5% per diciamo le tasse societarie. Questo non è mai andato giù ai grandi paesi europei, in particolare a Francia e Germania, che vedono in questa misura una sorta di dumping fiscale ai loro danni. Però questa è stata una delle chiavi del miracolo irlandese, che infatti ha attirato moltissimi investimenti stranieri. E certo. E loro, Adriana, naturalmente non ci vogliono rinunciare, cioè l'accettare, esatto, l'aiuto equivarrebbe a una sorta di commissariamento della politica, esatto, economica. Tra l'altro il ministro dell'economia Giulio Tremonti si è detto contrario a un riallineamento rapido alla media europea del livello di imposizione per le imprese, nel senso che è convinto che questa cosa debba avvenire gradualmente. Tu ci parlavi della necessità di un salvataggio bancario, perché è vero anche che sul fronte dei conti pubblici, se dal lato del deficit le cose per l'Irlanda vanno male, dal lato del debito l'Irlanda non è messa per nulla male, in realtà, insomma, non molto, no, peggio degli altri. Sì, perché ha risorse fino, diciamo, alla metà dell'anno prossimo. Ma tornando a quello che dicevi su Tremonti è contrario, in quanto dice si rischia a questo punto, tra le misure di austerità pesantissime e addirittura una rivoluzione fiscale, di ammazzare il malato invece di aiutarlo a guarire. Per questo lui parla di gradualismo, proprio perché non si può esagerare a imporre cure da cavallo che poi non riescono nemmeno ad ottenere l'obiettivo di una stabilizzazione di un paese. Che poi, Adriana, è il grande tema di queste settimane, insomma, come coniugare questo benedetto sviluppo con questo benedetto equilibrio dei conti pubblici, perché è quello il tema di fondo dell'Europa in questa fase. Certo, per cui infatti diciamo che nella cura di austerità in genere si accompagnano anche delle misure di riforme strutturali, ma naturalmente in momenti critici è molto difficile, in momenti di bassa crescita economica, di alta disoccupazione, è molto difficile vendere alle opinioni pubbliche questo tipo di terapie, e al tempo stesso però quando si hanno i mercati sul collo in questo modo e i costi del rifinanziamento del debito che schizzano in alto, qualcosa bisogna fare per calmare i mercati. Cosa che probabilmente dunque avverrà, come ci dicevi, nel fine settimana. Grazie ad Adriana Cerretelli, inviata a Bruxelles del Sole 24 Ore. Buonasera. Chiudiamo così questa nostra prima parte dedicata all'Irlanda, ci ritroveremo subito dopo per parlare dei mercati. Vi dico nel frattempo che le cose sono andate piuttosto bene, un più 0,37% sul FTSE MIB, un più 0,44% sul FTSE All Share. C'è da dire anche che ieri invece le cose sono andate parecchio male, Wall Street è appena sopra la parità, l'euro in parziale recupero ha toccato un minimo a 1,3458 contro dollaro e adesso quota 1,3528. Dunque una pausa e poi la borsa. Le 17:36 minuti, 11 secondi, è il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sembra che la questione irlandese, che ancora vaga un pochino nell'incertezza, oggi non abbia influito più di tanto sui mercati. Del resto, ieri avevano ricevuto una bella botta, quindi forse anche un rimbalzino. Sì, infatti si può parlare proprio di rimbalzino, del resto anche a Piazza Affari numerosi titoli hanno rialzato la testa, ma soprattutto anche per motivi strettamente tecnici, dopo numerosi ribalzi hanno, infatti gli investitori sono tornati ad acquistare considerando i livelli bassi di prezzo su cui molti titoli si sono spinti. Per quanto riguarda gli indici, lo dicevamo, FTSE MIB più 0,37 in chiusura, FTSE All Share più 0,44, l'America in perfetta parità, Parigi che guadagna lo 0,8, era quella che aveva perso di più ieri, del resto Francoforte che guadagna mezzo punto percentuale, Londra lo 0,21%. Venendo ai singoli titoli ancora in luce, la Galassia Fiat, anche se non propriamente Fiat, che in realtà è negativa dello 0,31%, ma soprattutto Exor, la controllante, più 3,17%, tra l'altro è il secondo giorno consecutivo. Esatto, anzi Exor si può dire che si è spinta su nuovi massimi storici sopra i 21 euro, sul finale ha chiuso proprio a 21,17 euro. Fiat in verità ha registrato un andamento volatile, nel senso che per gran parte della seduta è salita e proprio sul finale ha frenato. Ovviamente c'è molta attenzione sul gruppo, visto che tra l'altro questa notte sono uscite molte notizie. Ricordiamo che i vertici della società e anche l'amministratore delegato Sergio Marchione sono presenti a Los Angeles per l'inaugurazione del Motor Village e stanno presentando negli Stati Uniti la nuova 500. E sì. Ne sono uscite un po' di notizie, lo stesso Marchione ha ipotizzato l'eventualità di una fusione tra Fiat e Chrysler, ha detto comunque che l'IPO di Chrysler potrebbe avvenire il prossimo anno. Poi c'è un grande fermento ovviamente sul sul settore auto, visto che si parla molto in questi giorni di IPO, cioè di quotazione di General Motors, che sta riscuotendo grande successo negli Stati Uniti. Sì, questo è ovvio. Poi ieri è uscito il comunicato in risposta ad una richiesta della Consob da parte della Fiat, nella quale si parlava di alternative possibili. Tra le alternative possibili si parlava della cessione della Ferrari, della cessione di Magneti Marelli, della cessione di Alfa, anche se non così esplicitamente come la sto dicendo io naturalmente. Dice Marchionne: Alfa Romeo non è in vendita, ma certo se mi offrissero un assegno da 20 miliardi mi siederei al tavolo e ci penserei, e come dargli torto. A proposito di settore auto, ieri Pininfarina è letteralmente crollato, un calo del 9%, oggi invece un guadagno mi pare di circa il 12%, Eleonora? Sì, infatti Pininfarina in verità... No, ancora di più, un 22,3% addirittura. Sì, Pininfarina in verità non è riuscita a fare grandi contrattazioni, visto che questa mattina poi è stata sospesa per eccesso di rialzo e fino quasi all'ultimo i titoli non riuscivano a entrare in contrattazione, poi hanno terminato, come dici tu, in progresso di oltre il 20%. A far volare le azioni è la notizia che la notizia rilanciata dal sito specializzato Automotive News, secondo cui la casa torinese sarebbe nel mirino di Magna International. La stessa casa che aveva cercato di rilevare sia la Aston Martin da Ford sia la Opel da General Motors. Sì, quella sulla quale si innescò anche una sorta di battaglia proprio con la stessa Fiat. Magna è un gruppo austriaco-canadese, ve lo ricordiamo. Ecco, ci chiede un ascoltatore, dice: quanto durerà il crollo del Banco Popolare? Gli aumenti di capitale sono anche un'opportunità, ma le cadute del Banco Popolare di questi giorni, Eleonora, che oggi in realtà ha chiuso in perfetta parità, guadagnando lo 0,0%, sono dovute a questioni di risultati molto più che di aumento di capitale, no? Sì, risultati, più che risultati, in verità i risultati dei primi 9 mesi che sono stati comunicati venerdì scorso a borsa chiusa non sono stati nemmeno deludenti, anzi l'utile è cresciuto. Quello che ha deluso soprattutto gli esperti è stata poca chiarezza sulla strategia futura indicata dai vertici dell'istituto proprio durante la conference call. Non è infatti chiaro se saranno fatte delle cessioni, quali saranno le cessioni, ovviamente c'è cessioni necessarie ancora a migliorare il patrimonio della banca, che comunque appunto, come hai ricordato tu, nel 2011 si appresta a lanciare un aumento di capitale da 2 miliardi, una cifra molto consistente, quasi pari alla capitalizzazione dell'istituto. Complessivamente abbastanza bene le banche, la Popolare di Milano più 0,87%, Mediobanca che guadagna l'1,6%, UBI lo 0,35%, e scendono un pochino quelle che erano andate bene nei giorni scorsi anche nelle giornate difficili, o meglio erano andate un po' meglio, penso ad Intesa che cede lo 0,21%, Unicredit lo 0,47%. A proposito dei rimbalzi, ci sono Geox e Mediaset, Eleonora? Sì, in questo caso si può parlare di veri e propri rimbalzi. Geox, ricordiamo, aveva accelerato verso il basso proprio nei giorni scorsi dopo la pubblicazione dei conti dei primi 9 mesi, risultati deludenti, e soprattutto dopo il fatto che i manager della società hanno detto che i margini continueranno a soffrire non solo fino a fine anno ma fino alla prima metà del 2011. Oggi un rimbalzino più 0,22%. Stesso discorso si può fare per Mediaset, soffriva da una settimana e mezzo, nemmeno a farla apposta dai giorni successivi alle dichiarazioni con le quali Gianfranco Fini ha chiesto le dimissioni del Premier. Ovviamente, come ha detto anche ieri Pier Silvio Berlusconi, Mediaset ha sofferto di questo clima di incertezza politica, anche se in verità, come ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi, non dovrebbe risentirne, visto che è un'azienda che va avanti con le proprie gambe. Comunque oggi rimbalzo più 1,96%. Sì, tra l'altro avevamo sentito ieri le parole di Pier Silvio Berlusconi. Per quanto riguarda invece Fondiaria Sai, c'è oltre all'andamento di oggi, oltre alla debolezza di oggi, c'è anche una notizia interessante che, se vogliamo, ha anche un valore storico e cinematografico, Eleonora. Sì, una notizia che è appunto stata fatta proprio dal Radio Core, cioè sono in arrivo nuove dismissioni per Fondiaria Sai, il gruppo assicurativo della famiglia Ligresti. È infatti prevista la vendita della cascina Veneria, 725 ettari, la più grande azienda di riso d'Europa, che è diventata famosa soprattutto con le riprese del film Riso Amaro con Silvana Mangano e Vittorio Gassman. Sì, una vendita appunto che frutterà 45 milioni di euro, comunque debole anche oggi Fondiaria Sai, no? Sì, debole visto che il mercato continua a interrogarsi su quella che sarà la ristrutturazione futura della società, su un eventuale aumento di capitale dopo che è stato annunciato l'aumento di capitale da 225 milioni della controllante Premafin, la holding della famiglia Ligresti. Senza dubbio i titoli continuano a soffrire. Da inizio novembre infatti le Fonsai hanno ceduto oltre il 23%, mentre le Premafin hanno accusato un ribasso del 19%. Infine, Eleonora, il settore delle materie prime, anche perché è un tema sul quale torneremo dopo la viabilità. Eleonora? Il settore delle materie prime è rimasto in luce in tutta Europa, è uno dei settori che si è mosso meglio, più 0,88%, più 0,90% il sottoindice del vecchio continente. In Italia si sono messe in evidenza in particolare le Danieli, che hanno messo a punto un progresso dell'8,7%. Allora, ti ho detto ultima domanda, in realtà era un trabocchetto, perché vorrei sapere come mai, se si è capito, se è una questione di rimbalzo, i due titoli migliori di oggi, almeno sul FTSE MIB, sono Ansaldo e Tenaris, più 4,83 più 4,05 rispettivamente. Sì, allora, per quanto riguarda Tenaris, anche in questo caso si tratta di rimbalzo, poi è un titolo molto volatile, ieri era andato male, oggi più 4%. Ansaldo, ci sono due motivi, anche in questo caso un rimbalzo tecnico, visto che nelle ultime sedute era andato male, l'ultima settimana i titoli di Ansaldo avevano perso oltre il 10%. E più c'è stata comunque anche la notizia che la società si è aggiudicata una gara per fornire l'information technology alle Ferrovie dello Stato. Ovviamente sarà in buona compagnia insieme ad altre società che sono Almaviva, Engineering e Telecom Italia. È una commessa comunque da 856 milioni. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore, in particolare ad Eleonora Micheli. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. Tra un attimo andremo sui singoli titoli, solo una risposta rapida ad un sms, l'ascoltatore che ci scrive: Mediaset va avanti con le proprie gambe, vi pagano per dirlo? Diciamo no, non ci pagano per dirlo, abbiamo semplicemente riferito le parole del vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ieri ha parlato e ha commentato l'andamento del titolo in borsa, la viabilità, e poi facciamo un quadro finale di giornata. Le 17:48 minuti e 42 secondi, un quadro finale di giornata di Ansaldo e Tenaris, si è detto di Exor altrettanto, intorno ai 2 punti percentuali di guadagno Parmalat, Bulgari e Mediaset, in pregilo più 1,82, Luxottica 1,79, Mediobanca 1,5, Azimut 1 punto percentuale di guadagno, intorno allo 0,8 la Popolare di Milano ed Enel, Atlantia che guadagna lo 0,75, 0,5 punto percentuale circa per Campari, Terna e Pirelli, e Settimo Microelectronics che guadagna lo 0,4, Ubimanca lo 0,35, così come Saipem lo 0,33 Generali, Telecom Italia lo 0,25, Geox lo 0,22, lo 0,19 per Eni e Unipol, a ridosso della parità appena sopra Italcementi, Snam Rete Gas e in perfetta parità Popolare, Banco Popolare come si è detto e Fondiaria Sai, appena sotto Autogrill, Prismian e A2A, cede lo 0,2 Intesa, Buzzi Unicem lo 0,26, il Monte dei Paschi lo 0,27, Fiat lo 0,31, lo 0,47 Unicredit e CIR, Mediolanum lo 0,7, Finmeccanica l'1,08 e Lottomatica l'1,82%, Euro quota 1,3534 contro dollaro e la borsa americana rimane appena sotto la parità, meno 0,09% sul Dow Jones, e invece in guadagno il Nasdaq che guadagna 0,5 punto percentuale. Veniamo al prossimo tema, ossia le materie prime. Su questo fronte le notizie sono tante, si sono affollate tantissimo in quest'ultimo periodo, ci sono l'oro e i metalli che macinano record, ma ci sono anche le materie prime del settore tessile. Nei giorni scorsi il cotone ha raggiunto le quotazioni più alte dal 1870, superando il dollaro e mezzo per libra. Da inizio 2010 le quotazioni sono raddoppiate, vi lasciamo immaginare i problemi per le industrie del settore. Si registra di fatto una carenza di offerta, soprattutto per cotone e lana. Allora, io saluto Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, che è la collega e si occupa di materie prime. Sissi, buonasera. Buonasera. Allora, vogliamo capire innanzitutto da cosa dipende e poi che impatto sta avendo sulle aziende. Da cosa dipende? Da una serie di fattori. Sicuramente ci sono stati fattori climatici relativamente al cotone che hanno danneggiato l'offerta, che l'hanno danneggiata molto anche in Cina, che è il più forte acquirente, e poi ci sono stati anni di trascuratezza della coltivazione di cotone negli Stati Uniti che hanno portato gli Stati Uniti ad avere una produzione molto inferiore a quella d'un tempo. Nel caso americano parliamo del maggiore esportatore invece di cotone nel mondo. Poi, come sempre, sui mercati dei future ci sono anche forti investimenti, forti acquisti che accelerano ulteriormente i ricavi, però nel caso del cotone la carenza è vera al punto che non solo costa carissimo, ma pare che sia diventato molto difficile procurarselo. E come mai è così difficile da trovare? E un po' perché ce n'è poco, ma l'altro aspetto importante è perché c'è chi ne sta comprando a piene mani, i cinesi ovviamente come al solito, e perché date le quotazioni così elevate sui mercati dei future, quindi sui mercati a pronti, sui mercati spot, c'è anche il sospetto che qualcuno ci stia marciando, che qualche fornitore che si era impegnato a rifornire le nostre aziende tessili, le nostre filature con contratti di lungo periodo, quindi con prezzi bloccati un anno fa o qualche mese fa, adesso vedendo invece che rivendendolo a pronti può avere guadagni molto molto elevati, fa finta di avere qualche ritardo nelle spedizioni, qualche intoppo alle frontiere. Ecco, ma di fronte a questo mancato rispetto dei contratti, in sostanza non si può far nulla, è questo che non è... In pratica no, in teoria sono contratti con fornitori stranieri, ci sono probabilmente in teoria possibilità di fare arbitrati internazionali e cose di questo genere, poi è ovvio che la piccola media impresa italiana ha le armi totalmente spuntate di fronte a società che invece magari sono dei colossi delle esportazioni. Ovviamente, ovviamente. Questo riguarda il cotone naturalmente, ci sono dei problemi però sì anche per quanto riguarda la lana. Stessa cosa. Assolutamente, tranne che non c'è la speculazione finanziaria. La lana non ha dei future, quindi non possiamo dare la colpa agli hedge funds se i prezzi sono così alti, eppure sono ai massimi da 2 anni. Un po' è anche un buon segno di ripresa dei consumi, ripresa degli acquisti, sicuramente questo è vero anche per l'Europa, sarebbe vero anche per le filature italiane, c'è un risveglio, una ripresina della domanda. Il problema è che anche qui addirittura pare che fornitori australiani, quindi insomma un paese che ha fama non certo di essere troppo disinvolto negli affari, addirittura forniture australiane che non arrivano, ritardi di 5, di 6 mesi, questo almeno è quello che raccogliamo come segnalazioni tra gli imprenditori. Ti chiudo Sissi chiedendoti brevemente una cosa sui dati di oggi diffusi dalla FAO, che di fatto sono una certificazione del fatto che le materie prime agricole anche stanno vivendo un periodo di forte tensione, insomma si parla di un record ai prezzi all'import per i generi alimentari, no? Si parla di conti molto salati per i paesi costretti ad importare derrate alimentari e soprattutto di un peso molto, molto pesante e crescente per i paesi poveri, i paesi che hanno deficit alimentari, che quindi sono già messi molto male, sono a rischio di fame, non stiamo parlando semplicemente di qualche rialzo di inflazione. E la FAO sì è in allarme perché gli stock, le scorte di cereali a livello globale stanno stanno calando, i prezzi sono in forte tensione, tutto il settore agricolo, un po' non solo le fibre, che è molto in tensione, si registrano insomma cali di offerta e problemi vari, per cui non siamo ancora ai livelli dell'estate del 2008, quando ci furono anche rivolte per il cibo e per il pane, però la FAO ci avverte nel suo ultimo rapporto che insomma ci stiamo andando vicini, se molto, non riusciremo a crescere molto la produzione a breve potrebbero esserci delle serie carenze. Bene, grazie dunque anche a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore per essere stata con noi. Buonasera Sissi. Buonasera. E chiudiamo questa prima parte di Focus Economia, ci ritroviamo subito dopo, parleremo ampiamente di finanziaria e anche dell'ecobonus. Focus Economia. Le 18 e 8 minuti e 15 secondi, bentornati a Focus Economia da Simone Spezia. Nella nostra seconda parte del programma parleremo di finanziaria, della manovra, parleremo dell'ecobonus e anche dell'allarme lanciato dalla DIA sulle infiltrazioni dell'Ndrangheta, sulle possibili infiltrazioni dell'Ndrangheta nell'Expo. Dunque iniziamo dalla legge di stabilità. E ci colleghiamo subito con Montecitorio, con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buonasera. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, Vincenzo, da quel che sappiamo era proprio nella giornata di oggi, nel pomeriggio di oggi, che il relatore alla finanziaria Marco Milanese avrebbe dovuto presentare gli emendamenti già annunciati dal governo. Facciamo un punto su quali sono, Vincenzo. Sì, soprattutto due emendamenti che erano stati messi un po' sotto accusa da parte dell'opposizione. Si era detto il governo vuole rimandare il tutto a fine anno nel mille proroghe, di fatto stiamo parlando dell'emendamento sull'eco bonus per le ristrutturazioni edilizie. Il relatore milanese lo ha ripresentato in una formulazione evidentemente nuova da parte del governo, e si prevede la possibilità di procedere alla detrazione del 55% spalmata su 10 anni e non su 5 come invece funzionava la norma fino a quest'anno. La misura, ha spiegato il vice ministro invece all'economia Vegas, comporterà entrate IVA per oltre 100 milioni il primo anno e passerà invece poi come misura ad un costo di circa 300 milioni nel secondo anno. Soddisfatta l'opposizione, il centrosinistra, ma anche molte categorie imprenditoriali che avevano sollecitato proprio il governo a non dimenticarsi di questo importante emendamento. Altro punto molto atteso, l'intervento per i malati di SLA. Nei giorni scorsi i familiari vicini e quindi a questa sofferenza di chi è affetto da questa malattia si erano rivolti proprio al ministro dell'economia Tremonti sollecitando che fossero messe a disposizione delle risorse sufficienti proprio per combattere questa malattia. Sì, tra l'altro Vincenzo, erano venuti, se non sbaglio, proprio ieri o l'altro ieri davanti a Montecitorio per protestare proprio per questo punto. Ti farei una domanda sul clima politico e quindi poi anche di una questione di calendario, diciamo così. Allora, nei giorni scorsi ha speso parole lo stesso viceministro Vegas dicendo insomma se non ci fossero gli emendamenti in sostanza sarebbe meglio. Sappiamo che questo è impossibile, ce ne sono mi pare 371, mi sbaglio, esclusi quelli del governo ovviamente, Vincenzo. Sì, sono 372, la maggior parte del centrosinistra. Ma anticipo, credo, la tua domanda. In assenza di un voto di fiducia, e sembra il governo orientato a non porre la fiducia questa volta sulla finanziaria, probabilmente lo stesso centrosinistra, in questo caso il Partito Democratico, dovrebbe sfoltire di molto queste proposte di modifica, lasciando solamente alcuni emendamenti evidentemente a cui tiene particolarmente. Veniamo dunque al calendario, Vincenzo, perché la questione tensione, come abbiamo sentito, si intreccia moltissimo, com'è naturale, con le vicende politiche, quindi ad approvazione di finanziaria poi si discuterà di quello che si vuole a partire dalla fiducia al governo. La questione del calendario, come si procederà, quando si prevede, se c'è una previsione di approvazione definitiva? Entro venerdì di questa settimana vi dovrebbe essere il via libera da parte qui dell'aula di Montecitorio, addirittura potrebbe arrivare già domani sera. Dalla prossima settimana il testo sarà al Senato. In tutto resterà a Palazzo Madama 3 settimane, che secondo la maggioranza sono pochissime rispetto al passato. L'opposizione dice ma in fin dei conti si poteva fare prima. Praticamente fino al 3 dicembre il testo sarà nelle varie commissioni e poi arriverà in aula a Palazzo Madama il 7 dicembre, quindi immaginiamo che entro 3-4 giorni poi vi sarà l'approvazione. E torno a dire che il centrosinistra ha un po' polemizzato su questo, perché ha detto se c'era tutta questa urgenza nell'approvare la legge di stabilità, così come auspicato dal Capo dello Stato, si poteva fare anche prima, e quindi la maggioranza secondo il centrosinistra sarebbe facendo un po' melina. Il centrodestra replica dicendo che è una legge molto importante e quindi comunque ci sono dei tempi tecnici da osservare. Bene, grazie dunque a Vincenzo Miglietta in collegamento da Montecitorio per averci dato un quadro e anche un minimo appunto di calendario di questa manovra. Vedremo poi naturalmente che cosa succederà in aula. Intanto buonasera Vincenzo. E dunque torniamo a sentire quelle che sono state le parole del Presidente della Repubblica proprio sul tema della necessità di stabilità finanziaria. Del resto ne abbiamo parlato in apertura di programma, come avete sentito. Il riferimento di Napolitano è alle tensioni che si stanno registrando in queste ore, in questi giorni, per quanto riguarda l'Irlanda e il Portogallo. Sentiamo dunque Napolitano. Accenno al fatto che nel quadro delle conseguenze, ancora come si è rilevato, tutt'altro che lievi, della crisi economica mondiale innescata da inquinamenti e cedimenti del sistema finanziario, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, si collocano turbolenze finanziarie che persistono, che investono ancora una volta l'Eurozona, e sappiamo che da ciò possono anche derivare incognite per un paese come il nostro, gravato da un pesantissimo stock di debito pubblico. Abbiamo il dovere di fare fronte a questo vincolo che pesa tanto anche sul nostro bilancio anno per anno, attraverso un costo purtroppo variabile, spesso variabile in crescita, del costo del servizio del debito. E è molto importante che noi diamo nelle prossime settimane un segno di continuità e di rigore attraverso l'approvazione nei tempi stabiliti delle leggi di stabilità e di bilancio per il 2011. Io perciò considero molto importante il fatto che si sia dimostrato senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, decidendo di dare l'assoluta precedenza all'approvazione delle leggi di stabilità e di bilancio anche rispetto al dibattito politico che è aperto e che troverà successivamente modo di svilupparsi in Parlamento. È stato, ripeto, un segno di senso di responsabilità, e avremo bisogno di altri segni di senso di responsabilità da parte di tutte le forze nel prossimo avvenire. Così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Della legge di stabilità, quindi della finanziaria, ma non solo, torneremo a parlare tra poco con il Presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, Paolo Buzzetti, che è già in collegamento. Buonasera Buzzetti. Buonasera, sì, buonasera a tutti. Ci risentiamo subito dopo la viabilità. Sono le 18:17 minuti, veniamo dunque al presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Allora, presidente, la prima domanda che le devo fare è su questo ecobonus. Perché? Perché è vero che alla fine, forse tra l'altro, rientrerà in finanziaria, comunque insomma sembra quasi certo perché l'emendamento del governo c'è, è vero anche che è assai ridotto rispetto a quello degli anni scorsi, insomma si è detto un mini ecobonus. Voi come la vedete, come lo trovate? Beh, diciamo, sì, la probabilità è forte perché gli stessi esponenti del governo hanno detto di volerlo portare come emendamento quest'oggi, quindi speriamo proprio che sia assolutamente così. Diciamo che è spalmato su 10 anni invece che 5 questa possibilità di detrazioni, quindi ovviamente è un effetto calmierato. Meglio che niente, ci rendiamo conto da questo punto di vista della difficoltà generali, certamente riduce gli effetti di un qualcosa che tra l'altro poi ha il vantaggio di produrre gettito nel tempo e di portare diciamo innovazione tecnologica e qualità della vita negli edifici. Però ecco, il fatto di essere stato completamente cancellato sarebbe stato negativissimo. Questo è una dimostrazione di buona volontà, anche se ne rallenta gli effetti. Altra dimostrazione di buona volontà, sempre relativa a questa manovra finanziaria, è il fatto di aver aggiunto un anno ai famosi 4, cioè portato a 5 come l'Europa permette, la detrazione IVA laddove non ci sia l'invenduto, no? Per l'impresa che ha costruito un edificio e non riesce a venderlo, e quindi c'è la possibilità di mantenere questo problema, cioè il problema di dover restituire l'IVA al quarto anno, si può restituire al quinto, anche qui meglio che niente. È un provvedimento in stato di crisi assolutamente ingiusto, però il fatto che sia stato spostato di un anno va preso come un atto positivo, un tentativo insomma di procrastinare i problemi, e quindi diciamo ben accolto, pur in un quadro congiunturale difficilissimo. Certo, naturalmente è un discorso che facevamo già ieri l'altro con Rosario Messina, il presidente di Federlegno Arredo, sul tema dell'ecobonus, e notavamo che a volte c'è una visione un po' ristretta degli incentivi, è quello che accennava anche lei, nel senso che si tendono a considerare solamente come una spesa per lo Stato, mentre invece poi in realtà dall'incentivo c'è un movimento di consumi che porta ad incassi. Lo stesso vice ministro Vegas dice che l'eco bonus dovrebbe portare nel primo anno un maggior incasso IVA per 124 milioni, per una misura che ne costa complessivamente 300, quindi insomma tutto sommato ci si rientra abbastanza bene, no? Assolutamente, questo fa capire un ragionamento a brevissimo e non in prospettiva, cioè non voler vedere il ritorno che ci sarà, perché evidentemente si affronta una situazione di tale difficoltà che induce a queste scelte. Su questo naturalmente noi siamo di opinione contraria e diciamo che questi incentivi danno grande movimento, occupazione, oltre che ritorno fiscale per le casse dello Stato. Più in generale la scelta di dove mettere i denari è una scelta importante, a parte che non si sono ancora disposti, diciamo svincolati proprio le risorse, quelle del CIPE per le opere infrastrutturali e soprattutto le piccole e medie di così grande importanza. Lo vediamo purtroppo con il dissesto dei nostri territori che ogni autunno si ripresentano e che in effetti meriterebbero interventi di piani di piccole opere che potrebbero facilmente creare occupazione, ma anche sul piano degli incentivi mi permetto di dire, dico una cosa forte, ma piuttosto che i lavoratori socialmente utili oppure evolverli in altre scelte, probabilmente sarebbe il momento di insistere le incentivazioni a settori che funzionano, questo per esempio del risparmio energetico e quindi degli sgravi fiscali ai fini di indurre l'ammodernamento degli impianti e complessivamente i lavori in edilizia di ristrutturazione, che è un settore che nonostante tutto è l'unico nell'edilizia che sta andando bene, sarebbero al nostro punto di vista meglio impiegati ai fini economici dell'occupazione e della crisi che stiamo affrontando. Comunque sia, mi sembra di capire insomma per questa questione dell'eco bonus una moderata soddisfazione. E voi tra l'altro domani, Presidente, presenterete il vostro rapporto congiunturale che fotografa, immagino, ancora una situazione molto pesante. Il vostro è tra i settori che forse più ha sofferto la crisi, lo ha fatto a livello internazionale e lo ha fatto naturalmente anche a livello nazionale. Se ci può anticipare qualcosa, se ci può dare qualche indicazione di quel che emerge da questo rapporto. Certamente, quello che emerge è che la crisi intanto ha una situazione congiunturale forte ed è quella sulla quale noi fortemente domani sottolineeremo e nella quale anche stiamo spingendo affinché avvengano alcune cose, quali innanzitutto il calo degli investimenti che si registra anche quest'anno netto e che sta portando quindi ovviamente a una riduzione drastica di tutti gli appalti pubblici e di tutti gli interventi in campo infrastrutturale, dei lavori pubblici soprattutto quelli più piccoli. Poi c'è naturalmente la crisi ha messo a nudo delle problematiche strutturali del settore di cattivo funzionamento nei passaggi burocratici e delle amministrazioni pubbliche, una macchina ingessata e siamo fermi completamente, questo è apparso evidente proprio per la crisi. Per questo noi insistiamo a dire che servono delle manovre di snellimento rapido di tipo amministrativo di cui si discute da più di un anno e che dovrebbero arrivare, ma c'è un aggravamento sempre dovuto a contingente che sono i ritardati pagamenti che stanno diventando un rischio e in qualche caso purtroppo una certezza e presto lo diventeranno a numeri molto grandi saltando se non si interviene di ritardati pagamenti dovuto al patto di stabilità con le amministrazioni locali e le amministrazioni in genere non riescono a pagare in tempo, stanno salendo i tempi medi di ritardo, la Comunità Europea ha varato una delibera esattamente ci può dare Presidente qualche esempio cioè su che livelli siamo? I 6 mesi di ritardo per il 48% delle imprese, ad esempio, è un sondaggio che abbiamo fatto e ce n'è un 25% che sta all'anno e mezzo addirittura, sono tempi incredibili che si ripercuotono su tutta la filiera ovviamente del settore edile, non paga l'amministrazione pubblica e sotto purtroppo poi vanno a pagarne subito i più piccoli le spese perché questi ritardati pagamenti possono portare anche a una crisi finanziaria, a un fallimento di un'azienda che non ha naturalmente, non deve avere energie tali da resistere a mesi e mesi di non pagamento su spese sostenute. E questa è una piaga gravissima che è dovuta alla crisi e sulla quale patto di stabilità e sulla quale bisogna assolutamente intervenire. Abbiamo studiato con Cassa Depositi e Prestiti, soprattutto SACE, 1000 modi per intervenire, bisogna prendere una decisione e intervenire perché è un punto di, come dire, di civiltà, di coerenza ma anche di sopravvivenza economica. Quindi ci sono una serie di tutta la situazione congiunturale comincia a gravare con numeri ormai arrivati a più di 200.000 di posti di lavoro persi nel settore e con queste difficoltà finanziarie, con questa circolarità di denaro inferiore di pagamenti in ritardo. Allora in tutto questo alcune cose vanno fatte subito e alcuni difetti vengono da lontano e sono nelle nostre inefficienze generali e richiedono una svolta epocale nel settore di modernizzazione, di qualità nella scelta dei soggetti imprenditoriali, nei qualità delle amministrazioni, ma c'è una contingenza che ci fa preoccupare per una deindustrializzazione del settore se non si interviene molto rapidamente. Questo il quadro per quanto riguarda la congiuntura, che mi sembra quindi di capire fotografa ancora una situazione pessima, insomma. Assolutamente. Due messaggi a contrasto, così li diamo. Un ascoltatore, Max da Roma, dice basta incentivi, servono solo ad aumentare le tasse, ci facessero scegliere come spendere i nostri soldi. E Mario invece che dice ma vi rendete conto che con l'incentivo emerge anche il sommerso, quindi li mettiamo a contrasto e ci fermiamo qua. L'ultima domanda, le note dolenti oggi dalla direzione investigativa antimafia, Presidente Buzzetti, che riguarda l'allarme lanciato sull''ndrangheta e l'interazione con ambienti imprenditoriali lombardi e in particolare l'allarme per quanto riguarda l'Expo. Chiede, dice la DIA, serve un razionale programma di prevenzione che consenta di bloccare le possibili infiltrazioni in previsione delle opere previste per l'Expo 2015 e parla espressamente insomma di imprese che fanno direttamente riferimento alle organizzazioni criminali, a questa organizzazione criminale. Come la vedete, cosa pensate di fare? Vediamo che hanno ragione, bisogna assolutamente, la crisi sta peggiorando, sta aumentando il pericolo, perché naturalmente la possibilità di acquisire aziende,